Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, da Deborah Rosciani bentrovati a Salva Danaio. Il costo della crisi finanziaria in termini di svalutazioni e perdite globali sarà di 4.000 miliardi di dollari entro il 2010, una cifra per noi inimmaginabile. E due terzi di queste svalutazioni saranno a carico delle banche. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria, rapporto che è stato divulgato ieri a Washington. È una notizia che, per quanto preannunciata per la verità già nelle scorse settimane, ieri ha di nuovo appesantito le borse, che erano già reduci da un inizio di settimana tutto in salita. Insomma, a furia di parlare di queste ultime sei settimane, all'incirca sono sei, di tendenza positiva sui mercati, come ci eravamo anche un po' detti venerdì scorso, è arrivato lo stop, forse ce lo siamo tirati anche un po' addosso. E lunedì i mercati, lo abbiamo raccontato, hanno bruciato 133 miliardi di capitalizzazione. Ieri a metà seduta le cose stavano andando di nuovo piuttosto male, poi gli indici sono riusciti a risalire la china e oggi va un po' meglio, lo abbiamo detto anche nel corso del giornale radio, abbiamo una situazione tendenzialmente positiva anche se le prestazioni sono molto differenziate. Parigi e Francoforte adesso fanno più 3, prima guadagnavano mezzo punto, Londra più 0,7, era partita un po' più rallentatore stamattina, Milano invece meglio delle altre, sta guadagnando più di un punto, è arrivata a guadagnarne 2. Insomma, però il quadro è ancora molto volatile, molto incerto, le borse sono ancora molto ballerine. La sensazione è che lo scenario di fondo non sia affatto ancora cambiato rispetto a qualche mese fa, almeno non sia cambiato nella misura sufficiente a riportare la fiducia in borsa, a riportare gli investitori in borsa. Cosa sta facendo? Ancora un punto della situazione stamattina a Salva Danaio con Marco Vicinanza, direttore investimenti di Arca SGR. Bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. E buongiorno e bentornato anche a Giuseppe Marzi, amministratore delegato di Schroeders Italia. Buongiorno. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione per tornare a commentare lo scenario sui mercati e anche per chiedere, se volete, delle indicazioni su come orientarvi nel mondo dell'investimento in questo momento, nel mondo del risparmio. È comprensibile, la scelta da prendere in una fase come questa è molto molto difficile, quindi lo sapete bene, molti di noi sono fermi, molti non hanno così il coraggio di prendere delle posizioni aggressive sul mercato azionario, almeno anche se qualcuno si spinge e suggerisce di farlo, visto che le quotazioni sul mercato sono talmente basse che sono anche per certi settori forse incomprensibili, non valutazioni non corrette. Comunque lo chiederemo ai nostri ospiti questa mattina. Un'occhiata alla borsa, gli indici ve li ho già dati per quello che riguarda l'Europa. Quest'oggi a Piazza Affari il mercato oggi punta con grande decisione su Pirelli, più 9%, il gruppo ieri ha presentato la trimestrale, evidentemente è stata una buona trimestrale perché il giudizio del mercato è del tutto favorevole. Ieri già il titolo aveva chiuso con un rialzo di oltre 5 punti. Geox più 3,76, la ex autostrade sta correndo pure stamattina come corrono le tariffe, perché aumenteranno di nuovo nei prossimi mesi, pertanto probabilmente anche su questa prospettiva il titolo stamattina è ben comprato, più 3,59. Autogrill più 3,16. Fiat più 2,82%, stamattina il lingotto era partito di nuovo male, invece adesso sta recuperando e rimbalzando. Tra l'altro speriamo nei prossimi giorni di sapere come e in che modo si concluderà la partita con gli americani di Chrysler. STM più 2,75, Prysmian più 2,41, Alleanza, Monte dei Paschi, Mediobanca, Impregilo, Mediaset, Unicredit e Generali, questo è un bel gruppo di titoli tutti con un rialzo di 2 punti percentuali. Chi va male invece Campari meno 1,15, Snam meno 1,13, Ansaldo in ribasso di un punto, Parmalat meno 0,8, Mediolanum meno 0,6%. Da qualche giorno sta riprendendo quota il dollaro sull'euro, adesso le quotazioni sono a 1,29,40 in questo momento. Questo è lo scenario di questa mattina, ma noi cerchiamo di allargare un po' il nostro raggio d'azione per capire, insomma, dove stanno tentando di andare questi mercati, anche alla luce del rapporto del Fondo Monetario Internazionale che è stato pubblicato ieri. L'euforia sembra essersi già spenta sui mercati dopo la scorsa settimana caratterizzata da spiragli di ottimismo. Sulla scia delle trimestrali delle banche americane, una nuova ondata di vendite si è riversata sulle principali piazze finanziarie, complici anche i rialzi dopo il recente rally che ha consentito ai listini di recuperare dai minimi toccati all'inizio del mese di marzo. Ad appesantire la situazione nella prima seduta della settimana, che ha visto andare in fumo 133 miliardi di dollari, ha contribuito contribuito Bank of America, che nonostante una trimestrale superiore alle attese, ha annunciato di aver accantonato oltre 13 miliardi di dollari per coprire eventuali perdite del debito in crescita. Segnale per gli investitori che la brusca impennata nei guadagni dell'istituto possa in realtà nascondere problemi più grandi, quali titoli tossici. A soffrire nella seduta di lunedì sono state naturalmente tutte le banche, con ribassi anche in Europa vicini al 10%. A contrastare il trend negativo non sono bastati nemmeno due maxi operazioni che in tempi non sospetti avrebbero galvanizzato i mercati. Da un lato l'acquisizione da parte di Oracle di Sun Microsystems per 7,4 miliardi di dollari, dall'altro l'offerta da 6 miliardi di Pepsi per acquisire i suoi imbottigliatori. L'incertezza dunque continua a fare da padrone e il mercato sembra nutrire forti dubbi sulla bontà dei primi dati delle banche e allo stesso tempo si interroga sulle prossime mosse dell'amministrazione Obama, che sembrerebbe orientata, per ricapitalizzare il sistema del credito senza chiedere fondi aggiuntivi al Congresso, a convertire in azioni ordinarie i titoli privilegiati di cui è in possesso. L'incertezza è stata in parte stemperata ieri dalle dichiarazioni del segretario al Tesoro americano Timothy Geithner, che ha indicato come la maggior parte degli istituti bancari disponga di più liquidità e maggiori capitali di quanto necessario. Una notizia che ha consentito alle borse di limare le perdite sul finale di seduta dopo una giornata passata in gran parte in territorio negativo, complice anche la revisione del Fondo Monetario Internazionale, che ancora una volta ha rivisto al rialzo il costo della crisi, aumentando le previsioni sulle svalutazioni fino a 4 miliardi di dollari entro il 2010. 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Potete già cominciare a prenotarvi, qualcuno di voi l'ha già fatto, così come qualcuno di voi comincia già a prenderci in giro al 349 238 6666. Un ascoltatore dice: scommetto che però nessuno ha la sfera di cristallo, perché così insomma è una cosa che diciamo spesso, non lasciamo adesso, ma non lo fanno già loro, più sbilanciare per, come dire, un raggio temporale molto lungo i nostri interlocutori. Non è il caso di prendere delle posizioni analitiche, anche perché nessuno riesce più a farlo. Anzi, in questo momento, lo stavo dicendo anche questa mattina con alcuni colleghi, sta proliferando la letteratura economica finanziaria su tutti gli errori che sono stati fatti previsionali negli ultimi mesi. Comunque, guardare indietro si può essere sicuramente utile per guardare avanti, ma in questo momento guardiamo un po' quello che sta accadendo in questi giorni. Marco Vicinanza, direttore investimenti di Arca SGR, prima di andare al commento al rapporto sul Fondo Monetario Internazionale, che è molto interessante e non è che sia proprio molto incoraggiante quello che il fondo ieri ha detto da Washington, le chiedo qual è il suo giudizio invece rispetto a questa tendenza positiva che sul mercato era ripresa da inizio marzo e che ha avuto questo fragoroso stop lunedì scorso. Era naturale attenderselo o comunque i timori che sono ritornati sul mercato sono tutti giustificati? Insomma, ancora sono le banche americane il grande oggetto dell'attenzione. Ma io credo che il mercato abbia reagito a qualche elemento di positività che è stato evidenziato nelle ultime settimane. Il presupposto è che chiaramente un mercato che è giù del 60% sta scontando già tante cattive notizie, un mercato che chiaramente prezza, come si dice, il peggio. Di fronte a una situazione del genere basta poco, quindi basta anche un miglioramento marginale per determinare un movimento rialzista anche così intenso come quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. E questo poco, secondo me, è riconducibile a due ordini fondamentali di fattore. Il primo, segnali timidissimi sul piano macroeconomico, che la fase recessiva non è terminata, ma c'è un qualche accenno di stabilizzazione di alcuni indicatori. Tant'è che anche alcune autorità politiche e economiche si spingono a dire forse il peggio del ciclo inizia a essere alle spalle. Secondo elemento che ha aiutato gli stili a recuperare è legato all'attivismo ancora ben evidente delle autorità monetarie e politiche. Pensiamo al piano Geithner, pensiamo all'incontro del G20 con lo stanziamento delle nuove cifre, pensiamo ai tagli ulteriori e manovre straordinarie delle politiche monetarie, e diciamo anche in ultimo da non sottovalutare. La stagione dei risultati del settore finanziario americano si è aperta con qualche sorpresa positiva. Qualche istituzione non ha riportato così male come si poteva attendere. Le banche vi hanno sorpreso, ci sono stati i dati di Citigroup di venerdì scorso, quelli di Bank of America di lunedì, che invece hanno di nuovo mandato nel vortice del pessimismo gli operatori. Quindi la situazione bancaria, secondo lei, a che punto è negli Stati Uniti? Le reazioni contrastate sui primi report, poi quelli di Citi, quelli di Bank of America, naturalmente dimostrano che i nervi sono ancora molto scoperti, che c'è quindi grande incertezza ancora su quale sia il reale stato di difficoltà del sistema finanziario americano e mondiale. In due parole possiamo dire che tendenzialmente le banche che hanno un'attività di cosiddetto investment banking sono riuscite a far soldi da mercati turbolenti, con alta volatilità, con altri margini di intermediazione, sono riusciti a lucrare profitto. Il caso di Goldman, il caso più evidente degli ultimi tempi, è il caso anche di Bank of America con la componente Merrill Lynch. Dall'altra parte la paura è ancora legata però al portafoglio, dove inizialmente i timori erano legati al portafoglio di titoli, i famosi titoli tossici. Adesso il problema chiaramente è l'attività più tradizionale delle banche nei confronti di una recessione, sono i prestiti alle imprese, i prestiti al settore commerciale, quelli che preoccupano. Tra l'altro c'è anche questo famoso stress test che le autorità americane devono fare nel giro di pochi giorni per valutare anche se tutti gli aiuti finanziari che alle banche americane hanno regato in queste settimane sono stati aiuti, come dire, utili. Peraltro ci sono alcune banche che vorrebbero restituire anche questi prestiti negli Stati Uniti, ma credo che l'amministrazione Bush non lo consenta. Ma poi magari questa questione, che è anche molto affascinante, la spiegheremo. Giuseppe Marsi, Schroders Italia, chiedo anche a lei un commento su questa tendenza che si è vista nelle ultime settimane. Lo stop di lunedì scorso, lo scenario di fondo è cambiato, secondo lei sta tentando di cambiare? Io mi ricordo anche quanto lei ci diceva qualche settimana fa, non è tra i più ottimisti che abbia ascoltato negli ultimi mesi. So che lei è molto preoccupato per le grandi emissioni di liquidità sul mercato e lo scenario inflattivo che potrà probabilmente anche determinarsi tra qualche tempo. Ma sì, l'inflazione, devo dire, non è il primo dei problemi in questo momento. Fosse un problema, sarebbe anche forse un po' la soluzione dei problemi più che il problema stesso. No, quello che mi preoccupa di più è che tutti noi siamo portati a dire grazie a questi aiuti eccetera tutto torna come prima, no? E oggi c'era un articolo, oggi o ieri, sul Financial Times molto significativo di Martin Wolf, che diceva che non può tornare come prima perché il sistema come prima è scoppiato, quindi troppa leva, quindi troppo debito, no? E cita due dati che secondo me sono significativi. Nel 76 il settore privato aveva indebitamenti pari a 1,12 volte, quindi 112% del GDP americano. Nel 2008 il settore privato, quindi privati, erano indebitati per 295% del GDP, quindi un aumento di più di tre volte rispetto al 76. Ma quello che appare più sconcertante è sul settore finanziario, perché nel 76 il suo debito era del 16% rispetto al GDP e nel 2008 del 121% rispetto al GDP. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente continuerà tutta la fase di limitazione dei crediti, che dovrà portare ad una situazione di bilancio un po' più, posso dire, sicuri, quindi meno crediti rispetto al patrimonio che si ha. E i casi sono due: o si vogliono tenere i crediti ai livelli attuali, però allora bisogna ricapitalizzare, che se ne dica, grandemente il sistema finanziario. Oppure, ma questo tra l'altro è proprio il motivo per cui lo Stato americano non vuole uscire dalle banche, infatti, che ha ricapitalizzato adesso, vuole controllare, infatti, che il credito continui. Certo. Oppure bisogna diminuire i prestiti che si danno. Tutte e due le cose a che cosa portano? La prima porta sicuramente al fatto che non si può andare soltanto a chiedere i soldi agli stati, ma devono convincere anche me, lei e chi è intorno a questo ufficio di investire un proprio risparmi nel capitale di rischio. Quindi, in teoria, secondo me, bisogna vedere a che livelli ci convinceranno a farlo. Oppure bisogna dire alle banche che non possono avere una leva superiore a un certo valore del loro patrimonio, però questo avrebbe un impatto enorme sul quello che si chiama deleverage, quindi questa diminuzione del credito che farebbe rallentare drasticamente l'economia. Quindi la situazione comunque non è una situazione finanziaria. È un dilemma di portata enorme fino a quando non si saprà chiaramente che posizione prendere rispetto al problema, dire, si continuerà a navigare a vista come abbiamo visto. O si ricapitalizza o questi devono rientrare dei prestiti. Peraltro il Fondo Monetario Internazionale, ieri ha anche detto che le autorità devono, lo riporta Alessandro Merli questa mattina sul Sole 24 Ore, devono continuare a muoversi su tre fronti: la fornitura di liquidità, la pulizia dei bilanci bancari dalle attività tossiche e la ricapitalizzazione degli istituti in grado di stare in piedi con la chiusura rapida in modo ordinato di quelle istituzioni finanziarie insolventi. Quindi siamo di fronte ad uno scenario che apre la porta ad altri fallimenti bancari. Marco Vicinanza, cosa ne pensa? Ce ne sono stati 25 nel 2008 di fallimenti bancari negli Stati Uniti, 23 da inizio anno al 9 aprile, in totale 51, perché ne abbiamo 3 anche nel 2007. Ma bisogna intendersi a questo punto anche sul cosa si intende per far fallire una banca. Se la domanda è vi aspettate altri episodi tipo Lehman? Io credo che le recenti dichiarazioni facciano pensare che quell'errore, come giudicato da chi lo ha compiuto, non sarà più ripetuto. Quindi io non credo a fallimenti disordinati. Che ci siano le banche che non siano in grado di sopravvivere, questo è un dato di fatto. Lo stress test, lo ricordo, interesserà le prime 19 banche americane. Ci sarà, stando alle dichiarazioni di ieri di Gaetner, ci sarà probabilmente qualcuna di queste istituzioni che non è in grado, che tecnicamente non riesce a sopravvivere. È insolvente. Io credo che la soluzione sarà una soluzione in qualche modo pilotata. Non verranno lasciate andare queste banche. Il che vuol dire, naturalmente, è una buona notizia, perché non c'è un rischio sistemico. Per l'istituzione è una cattiva notizia, perché vuol dire che a quel punto il capitale viene azzerato, c'è un intervento esterno e di fatto gli azionisti vengono in qualche modo spazzati via. Allora, tra l'altro, a proposito di banche, vedo già un ascoltatore che vorrebbe chiedere giudizi proprio su queste americane. Raffaello, da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite bene? La sento benissimo, Raffaello. Benissimo, allora ero attento a quello che diceva il signore, non mi viene il nome. Il dottor Vicinanza di Arca, sì. Effettivamente è vero che non falliscono più, però le prospettive di ricrescita ci sono tutte come prima, come una banca libera di potersi muovere. Avendo io comprato la Citigroup a una determinata cifra, la possiamo dire? Sì, se non è una parolaccia, come dico sempre io, Raffaello, ci mancherebbe un prezzo, una quotazione, un valore, non è un problema. Esatto, io le comprai a 14 euro, perché le compro in Europa, sì, e non in dollari. E poi le ING le ho comprate a 11, naturalmente le ho mediate a dei prezzi bassissimi, però io credo in queste due società. Rimarranno lì o avranno la possibilità di risalire, secondo i suoi interlocutori? Allora, guardi Raffaello, adesso io non so se è il caso che i nostri ospiti si sbilancino esattamente su questi due titoli, si possono però sbilanciare su quello che è stato il suo investimento in un settore che ha lo stato di salute che ha negli Stati Uniti. Su Citigroup abbiamo già detto molto venerdì, anche parlando della sua trimestrale. L'altra società citata è AIG, quindi il più grande gruppo assicurativo americano, che pure ha avuto delle sorti piuttosto complicate negli ultimi mesi. Eccoci di nuovo a Salvadanaio che ritorna sui mercati per analizzare queste tendenze delle ultime giornate, non proprio confortanti, ma eravamo reduci da 6 settimane consecutive di quadro positivo, quindi di ben recupero per i listini azionari. Lunedì invece una giornata molto difficile dopo la trimestrale di Bank of America, ieri così così, oggi il recupero sembra essere un po' più deciso, ma insomma abbiamo capito che non ci dobbiamo tanto fidare di questa situazione. Ancora il quadro per il futuro non è ben chiaro, tra l'altro stiamo ancora parlando dello stato di salute delle banche e non abbiamo neanche analizzato, lo abbiamo fatto parzialmente, quanto questa situazione ancora si sta riflettendo sull'economia reale. Anche Jean-Claude Juncker sul Sole 24 Ore di questa mattina, sempre nell'articolo riportato da Alessandro Merli, ricorda il ministro delle finanze del Lussemburgo come l'Europa sia da considerarsi in piena recessione. 800 24 00 24 per commentare con noi i temi di mercato, con Marco Vicinanza, direttore investimenti di Arca SGR, Giuseppe Marsi, amministratore delegato di Schroeder's Italia. L'ascoltatore che abbiamo sentito poco fa, Raffaello da Bergamo, molto interessato alla salute delle banche americane perché ne ha comprate un paio, chiede se insomma potranno andare incontro ad un recupero della propria solidità. Marsi, in futuro abbiamo visto che l'orientamento, quello di pilotare come dire il futuro atteggiamento delle banche verso un ritorno all'attività tradizionale, quindi non più come dire derivati, mutui cartolarizzati e quant'altro, questo potrebbe far ritornare su livelli interessanti le quotazioni, insomma quanto dovrà aspettare Raffaello da Bergamo per vedere un ritorno del suo investimento interessante? Credo che nessuno lo possa dire, ma vorrei attirare l'attenzione su due fattori. Il primo è che sicuramente le banche nella loro attività tradizionale faranno più soldi perché gli spread sono aumentati, quindi tra cattivo e buon pagatore ci sono degli spread diversi. Per quanto riguarda l'investment banking è diminuita la competizione, per cui sicuramente ci saranno ricavi diversi. Il vero problema è nella leva. È naturale che quello, un po' quello che dicevo prima, se le banche prima usavano il bilancio per dare crediti per 40 volte il loro patrimonio, questa volta credo che non glielo faranno più fare, perché il sistema non può permettersi questa leva. Quindi questo tradotto anche sulle quotazioni delle banche interessate a questo processo significa che comunque rimarremo su livelli piuttosto contenuti ancora per un po'. Ecco, c'è da dire una cosa, a mio parere rimarremo su livelli contenuti perché il secondo e terzo trimestre di quest'anno le banche prenderanno la palla al balzo e inizieranno a svalutare quello che hanno ancora da pulire nei bilanci, visto che ce n'è ancora un bel po', no? Il Fondo Monetario Internazionale lo dice, per cui non illudiamoci che utili siano poi dividendi. Utili potranno essere a copertura di svalutazione, quindi anche qua dobbiamo stare attenti quando investiamo a vedere quale sarà il flusso di dividendo, no? Perché se la remunerazione diventa più bassa O inesistente o si trasforma in azioni addirittura, perché abbiamo visto anche come hanno fatto le banche italiane. Quindi direi che sulla situazione bancaria devo dire c'è un po' di confusione, perché il Fondo Monetario dice una cosa, economisti sono più o meno concordi, analisti di banche non sono certo ottimisti, invece il segretario di Stato americano sembrerebbe essere più ottimista. Allora è naturale che questa nebbia deve un po' diradarsi e dobbiamo vedere nei mesi futuri che cosa succede. Sergio da Como, benvenuto. Sergio, sono in linea? È in linea Sergio, in diretta, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, la mia domanda è questa qui. Per chi volesse rientrare nel mercato con piccole somme, magari frazionandole, la mia idea è questa: perché non utilizzare dei prodotti tipo, non so, degli ETF a leva? Così facendo uno limita molto la somma e tecnicamente dovrebbe ottenere lo stesso risultato, cioè utilizzando metà della cifra che si era predeciso di dover versare, utilizzandone solo una parte. Sergio, io adesso non capisco bene la dinamica del nuovo prodotto di investimento che lei propone, non so neanche se sul mercato ci sia già qualcosa di simile. Detto questo, Marco Vicinanza, voi tra l'altro Arca anche così delle idee ben precise sulle modalità con cui tornare sul mercato in questo momento, e credo che guardi con grande attenzione invece all'ambito obbligazionario, sia governativo che societario, quindi mercato azionario è proprio ancora bene prenderlo con le pinze, o comunque studiare il modo per farlo come propone Sergio. Dunque, risposta alla sollecitazione di Sergio e poi un nostro suggerimento. Sì, si può utilizzare un ETF a leva, però il profilo del guadagno perdita tesa non cambia. Se io metto 100... Ci faccia un po' capire come dovrebbe funzionare un ETF a leva. Ho 100 e decido di comprare il mercato azionario. Se il mercato perde il 20%, ho perso 20. Mm-hmm. Se io decido di metterne solo 50, ma su un prodotto che perde il doppio del mercato, siamo punte da capo, perché metto 50, il mercato perde 20%, il mio prodotto perde 40%, quindi perdo sempre i 20 di prima. Quindi di fatto l'utilizzo di un prodotto a leva non sposta più di tanto le cose. chiaramente all'estremo può funzionare, nel senso che i 50 è il massimo che posso perdere. Se invece compro un prodotto tradizionale per 100, posso perdere teoricamente, se i mercati vanno vicino allo zero, quasi tutto. Ma io mi permetto di suggerire invece un altro approccio ai mercati, e la premessa è che obiettivamente dobbiamo, io concorro con quanto diceva prima Giuseppe Marsi, in questo periodo l'inflazione non è il problema, quindi dobbiamo mettere in conto che andiamo incontro a un periodo con tassi molto bassi, dove la remunerazione dei nostri risparmi sarà molto contenuta, quindi è inevitabile che prima o poi come risparmiatori dobbiamo porci il problema di dove e che tipo di rischio voglio andare a prendermi per cercare di migliorare un rendimento che altrimenti rischia di non remunerare, di non coprirmi neanche dell'inflazione, insomma, neanche la poca per quanto bassa, che c'è. È certo. Allora, sul mercato azionario il vecchio consiglio sempre valido, soprattutto in un momento del genere, è rientrare con piani di accumulo. È un mercato, storicamente possiamo dire tutto, chiaramente sappiamo benissimo che le circostanze sono ancora molto critiche, c'è il rischio di ulteriore ribasso, però sappiamo che stiamo comprando un mercato storicamente molto attraente come quotazioni, quindi iniziare a mettere qualcosina con l'idea di continuare a investire, e se le quotazioni scendono quindi avere un prezzo di carico medio basso, secondo me può essere la soluzione sempre valida, in particolarmente valida in un contesto di mercati molto molto molto ridimensionati. Ci sono altre classi di asset che permettono una remunerazione con un rischio molto migliore del mercato azionario, che permettono di migliorare la redditività del proprio portafoglio. Faccio riferimento per esempio a portafogli di titoli corporate ben diversificati, dove il premio al rischio, il cosiddetto spread offerto, è molto interessante. Parliamo di emissioni che possono dare mediamente, in un buon portafoglio diversificato, tra il 4 e il 5%, con un profilo di rischio tutto sommato contenuto. Corporate, quindi obbligazioni di società. Di società, parliamo di società con rating, quindi con merito di credito elevato. Stiamo parlando del caso delle banche di primaria importanza, stiamo parlando del caso di Enel piuttosto che Eni, France Telecom, nomi di questo tipo. È importante farlo attraverso un veicolo diversificato, perché il singolo nome, sappiamo, può creare un problema di perdite molto significative. Questo secondo noi è un modo per riapprocciare, di rimettere un po' di rischio al lavoro per cercare di migliorare la redditività di un portafoglio altrimenti molto povero. Ritornerei su un tema che lei ha toccato nel corso della sua risposta, che è uno scenario di tassi di interesse ancora piuttosto bassi per qualche periodo, e questo come si traduce anche nella come dire, prospettiva di investimento di chi punta su uno strumento molto diffuso che è il titolo di Stato. Maria Paola dalla provincia di Milano. Ecco, buongiorno e complimentissimi, naturalmente. Grazie Maria Paola, ci dica. Ecco, allora io chiedo, vorrei fare un investimento a 5 anni di un titolo di Stato, perché sono una persona molto prudente ma anche spaventatissima per la situazione odierna dello Stato. Dico, ma se poi, ecco, faccio questa domanda, se questo debito pubblico andrà ancora più in alto, io penso a volte, vero, forse ingenuamente, che lo Stato possa congelare i titoli, possa fare un prelievo forzoso, cioè la mia domanda è, c'è da aspettarsi delle brutte sorprese, come può lo Stato, che so, riappianare, si era detto qualche anno fa, il debito pubblico, cioè c'è da aspettarsi qualche brutta sorpresa? Io sono terrorizzata, gli dico la verità. Lo so Maria Paola, d'altronde noi ci proviamo qualche volta a rassicurare un po' gli animi di chi ci ascolta, qualcun altro invece, come dire, è più pronto a dipingere degli scenari un po' più preoccupanti. Allora adesso noi sentiremo cosa ne pensano i nostri ospiti, però ci metto insieme anche Marcella da Milano, che credo volesse intervenire sul medesimo argomento. Marcella? Sì. Buongiorno. Sì. La signora stava dicendo una cosa giustissima. Anch'io sono propensa a mettermi sui BTP anche a lunga scadenza, perché danno un buon rendimento, siamo sul 5%. Però mi sento anche sconsigliare dalla mia banca, perché dice che a lungo così si può correre dei rischi. Io di quelle cedole ho bisogno per pagare le bollette. Cosa devo fare? Allora, due gli aspetti che ci veniva in mente di considerare adesso alla luce delle domande che ci hanno fatto le due ascoltatrici, peraltro ce n'è una terza in attesa, quindi le vedo sulla finanza quest'oggi, le nostre signore in ascolto molto attente. Parlavamo della precaria situazione finanziaria del nostro paese, ma in realtà questa non è una novità e ci accomuna anche a tante altre realtà economiche dell'Eurozona. Ieri proprio il Fondo Monetario Internazionale in realtà ha fatto sapere che la Germania è riuscita a surclassare l'Italia e lo stock del debito pubblico tedesco è salito al terzo posto nella classifica mondiale dopo Stati Uniti e Giappone, per cui non so se questa è da considerarsi una buona notizia, però quantomeno da questa possiamo partire per ragionare. E non abbiamo più la nostra ascoltatrice, allora in realtà facciamo noi questa ipotesi. Marco Vicinanza, mi aiuti ancora lei, poi vado a Giuseppe Marzi, perché ci chiedevamo, insomma, visto che la banca, la nostra ascoltatrice, la sconsiglia vivamente di acquistare un BTP del quale avrebbe bisogno come investimento perché il flusso cedolare riconosciuto è interessante, e l'ascoltatrice dice: a me serve anche per pagare le bollette. Sarebbe interessante sapere cosa la banca propone in alternativa, visto che la scoraggi in maniera così vistosa dall'acquisto di un titolo di Stato. Ma sì, diciamo che in un contesto così turbolento non possiamo escludere niente, per carità. Però continuo a pensare che l'investimento in titoli di Stato di un paese sviluppato come l'Italia non comporti un eccessivo rischio. Come si diceva un attimo fa, tutto sommato, paradossalmente, da questa vicenda in relativo l'Italia non ne viene fuori malissimo, perché vedrà il proprio debito crescere ancora, però ci sono molti paesi nell'area euro il cui debito crescerà molto più rapidamente rispetto a quello. Alla luce anche, tra l'altro, dei piani anticrisi che sono stati varati negli ultimi mesi per appunto affrontare la rinnovata situazione economica molto difficile, sicuramente l'Italia ha messo in campo forze meno ingenti dal punto di vista finanziario rispetto a tanti altri paesi, forse questo costituirà una buona notizia per il futuro. Vicinanza, non lo so. Dico in relativo sì. Diciamo, la situazione dei bilanci pubblici peggiora per tutti. L'Italia ne esce fuori come un paese dove il peggioramento sarà meno marcato. Chi ha avuto più problemi o chi aveva più possibilità di spendere spenderà di più. Faccio un esempio banale e si capisce: l'Irlanda aveva un rapporto debito pubblico sul prodotto interno lordo che era neanche un terzo di quello italiano, perché era il 30% del proprio prodotto interno lordo. Questo 30% diventa più del 70% nel giro di un paio d'anni. Noi ci muoveremo di qualche punto percentuale. Abbiamo recuperato intanto Marcella. Marcella. Sì, sono qua. No, ha sentito, noi siamo un po' delle ienette qua in studio, ha sentito così l'illazione che avevamo fatto. Non lo so, ci chiedevamo, visto che la banca si ostina a non volerla assistere, le ha proposto qualcos'altro. Lei mi propone i suoi prodotti. Eccola, la Messi, quindi insomma. Un 3%, che tutto sommato di questi tempi non è neanche no, male. No. Ma io, attratta dal 5% dei BTP che mi si propongono però a lunghissima scadenza, che certo non li avrò io, li avranno i miei nipoti, riotterranno loro il capitale, però io nel frattempo ne posso godere di queste cellule. Va bene, Marcella. Servono tantissimo. Sentiamo un po', Giuseppe Marzi. Allora, intanto, in termini generali, Mario Paolo da Milano ha un'ottica temporale di 5 anni, però è molto preoccupata per le finanze del nostro paese. Marcella ha un'altra esigenza, comunque quella di avere una remunerazione un po' più alta, a fronte comunque di un impegno finanziario che è di più lunga scadenza rispetto ai 5 anni indicati dalla prima ascoltatrice. Che cosa facciamo con i titoli di Stato italiani? Ma questo mi sembra innanzitutto che una ascoltatrice mirasse un 5% di rendimento ai trentennali, quindi sì, trentennali sì. Vuol dire che in teoria comprare un trentennale a livelli più bassi di inflazione, di tassi, è abbastanza rischioso. Ecco, questo è bene che l'ascoltatrice lo sappia. Magari per 1, 2 anni o 3 anni o anche di più, se la deflazione persiste, speriamo di no, potrebbe gioire. Poi quando a un certo punto ci sarà un riflusso inflattivo che metterà a posto, e lo sappiamo tutti, i debiti di tutti gli stati intorno al mondo, è naturale che quei soldi perderanno valore, perderanno anche valore i titoli. Quindi devo dire che non consiglierei di comprare un trentennale dormendoci sopra, a meno che naturalmente questa non è che una parte del proprio patrimonio, il resto è in beni reali tipo case o altre cose. Quindi è diverso un titolo trentennale da un titolo a 5 anni. Che è della ecco, prima, sì. L'altra cosa che io dico è sicuramente la liquidabilità dei titoli, perché molte volte le persone sottovalutano a che prezzo lo comprano e a che prezzo potrebbero rivenderlo, perché è naturale che uno in questo momento potrebbe anche non aver bisogno di soldi, però se compro un titolo di Stato praticamente è molto liquido e la commissione di negoziazione dovrebbe essere molto bassa comunque. Uso il condizionale, dovrebbe essere molto bassa. Prodotti emessi da invece istituti privati direi che hanno un problema di liquidabilità decisamente più alto, quindi nel considerare le due alternative e anche considerare il fatto di avere la possibilità di tenerle fino a scadenza o meno. In realtà la prima ascoltatrice Maria Paola, quella che aveva un'ottica temporale di 5 anni di fronte a sé, aveva problema di un'altra natura, cioè lei temeva proprio che ad un certo punto, non so, Tremonti congelasse i rimborsi. Ma il congelamento del debito credo che sia l'ultima spiaggia, l'abbiamo visto in Argentina ultimamente, che ha fatto sul debito estero, poi non sul debito domestico no? Perché se congelano il debito vuol dire che l'economia si ferma e siamo tutti morti. Io direi che prima del congelamento del debito c'è tutta la fase inflattiva che deve essere vissuta e che serve a ripagare il debito in modo molto più subdolo. Quindi direi state attenti non tanto al congelamento, ma al fatto che a un certo punto, e qui il punto interrogativo è molto molto ampio, a un certo punto si ripagherà il debito con l'inflazione. Però ecco, io quello che vorrei dire, io per primo, ma tutti noi siamo molto atterriti dall'inflazione, perché nella nostra mente l'inflazione è quello che abbiamo vissuto sempre, sì. No? Non abbiamo vissuto la deflazione che stiamo vivendo adesso. Non abbiamo vissuto la deflazione, non abbiamo neanche vissuto un organismo bancario come la Banca Centrale Europea, che è comunque un'unione monetaria che in qualche maniera costituisce una cortina di ferro rispetto alle prospettive più devastanti. Pertanto una sorta di protezione ci sarà, per quanto possa schizzare. Abbiamo visto il 4% ad agosto, non so poi se potrà arrivare anche a qualcosa di superiore per riassorbire tutta la liquidità in circolazione. Marzi, quale potrebbe essere lo scenario peggiore in assoluto dei prossimi anni? Ma secondo me che lo scenario peggiore in assoluto che io vedo è la indisponibilità degli investitori di sottoscrivere i titoli di Stato a questi livelli di tassi, e quindi richiedono tassi più alti. Quindi il tema è che le aste possano andare deserte, più che non possano essere rimborsati i titoli in circolazione. Diciamo, magari non vanno deserte, ma vanno su tassi che iniziano a salire drammaticamente. In Gran Bretagna è già successo, quindi non vorremmo vedere anche questa situazione qua. Allora, 2 minuti di tempo e 2 ascoltatori. Maria Antonietta da Napoli, buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Grazie, rapidissima, la ringrazio molto. Sì, sono una consulente finanziaria, quindi sto sul campo sui mercati finanziari giornalmente. Io ho dei clienti esposti al mercato azionario, tanti clienti esposti al mercato azionario, su più società di gestioni, perché nel mio lavoro non c'è conflitto di interesse in quanto sono autonoma, quindi vedo un po' tutti i fondi, tutte le società di gestione, tutte le SICAV, e ho notato che in questo periodo, nonostante le 6 settimane di rialzo di cui anche lei parlava, i fondi sono stati molto fermi rispetto alle performance dei mercati. Ora, che anche i suoi ospiti in studio invitavano ad entrare nei mercati azionari con i piani di accumulo, quindi andando sul risparmio gestito, anche se in maniera graduale, su questo sono perfettamente d'accordo. Come facciamo noi consulenti proprio a mettere la faccia? Che bella domanda, Maria Antonietta, guardi, questa richiederebbe tutta una puntata. Come possiamo noi portare i nostri clienti sul mercato gestito, sulla finanza gestita, se i fondi non riescono a performare nemmeno quando... Come Maria Antonietta, guardi, è talmente bella la sua domanda che io le prometto che ci imbastirò una trasmissione intera sopra. Detto questo, ci rimane 1 minuto di tempo. Insomma, ma questi fondi che si comportano un po' come la benzina, Marco Vicinanza. Quando il petrolio sale, la benzina schizza, se il petrolio scende, invece qua i benefici non li troviamo mai. Maria Antonietta, con tutti i fondi che intermedia, dice non ha visto il benché minimo risultato e non sa come più presentarsi dai suoi clienti in questo momento. Non voglio fare il difensore d'ufficio della categoria, però posso fare un'osservazione che magari è ritenuta interessante dall'ascoltatrice. I fondi italiani hanno, secondo me, questa volta reagito bene. Noi guardiamo come siamo posizionati noi come investimenti e poi guardiamo, quando si muovono i mercati, come gli altri reagiscono verso di noi. Chi fa me? Ovviamente è una competizione, quindi ci guardiamo l'un l'altro. Noi siamo molto adesso, abbiamo comprato nella fase di debolezza e quindi quando il mercato è risalito eravamo con più esposizione di prima, mm-hmm. e non abbiamo guadagnato posizioni contro i nostri concorrenti italiani, il che vuol dire che mediamente i gestori italiani questa fase di rialzo, a mio avviso, l'hanno presa bene, cioè sono scesi quando il mercato scendeva, hanno avuto posizioni più leggere, sono salite quando il mercato è salito, le però posizioni sono più pesanti. Dice, io non li vedo questi risultati. Ci arrivo. Sì, dobbiamo farli in 20 secondi. 3 secondi. Mi è capitato di fare la stessa osservazione con un gestore che segue invece i mercati esteri. I gestori esteri, soprattutto quelli americani, non hanno avuto la stessa prontezza. I portafogli dei gestori, dei grandi nomi dei gestori americani, mediamente in questa fase sono rimasti un po' alla finestra. Sono rimasti molto scarichi, hanno perso. Signora, tenga presente naturalmente che i mercati fanno X, il fondo è tassato, quindi deve mettere in conto che quando il mercato fa il 20%, il fondo, anche se fa come il mercato, ha una tassazione alla quota. Però magari ci ritorniamo su questo argomento e chiedo alla nostra ascoltatrice di scriverci magari una mail un po' più argomentata in modo che la possiamo così analizzare anche con un po' più di attenzione e di cura. Grazie a Marco Vicinanza, Giuseppe Marsi per essere ritornati da noi, vi inviterò presto, sicuramente è stata una chiacchierata molto interessante. Stamattina intanto Salva Danaio, vi ricordo che come sempre ritorna domani. Domani andiamo sui fondi pensione, come stanno andando rispetto alla crisi. A domani, buona giornata. Salva Danaio.